So, Penelope is a cat. È il gatto di Lorenzo. Literally, the cat of Lorenzo. You can't say Lorenzo's cat or Marina's son in Italian as you can in English, so you have to use the word di. Per esempio, la borsa di Sara. Sarah's bag. La macchina di Lorenzo. Lorenzo's car. Il gatto di mio figlio. My son's cat. La penna di mia figlia. My daughter's pen. Ed ora tocca a lei. Try to say... Provi a dire... Try to say these examples in Italian. Provi a dire questi esempi in italiano. My wife's bag. La borsa di mia moglie. My husband's passport. Il passaporto di mio marito. My daughter's cat. Il gatto di mia figlia. My son's room. La camera di mio figlio. Now listen to this example. La macchina del mio amico. My friend's car, or the car of my friend. In this case, you have to combine di with the article that follows. Il mio amico. And it becomes del. Listen to the examples for other combinations. La borsa della mia amica. My friend's bag. Il gatto delle mie figlie. My daughter's cat. La camera dei miei figli. My children's room.